Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Oh, fatemi riprendere posizione in studio, sistemare il microfono, la scaletta è qua, l'acqua, abbiamo tutto. Buongiorno, bentornati. Beh, insomma, per me è la prima puntata in diretta del 2017. Noi ci siamo sentiti in diretta fino alla vigilia di Natale, poi mi sono concessa qualche vacanza, quel giorno di vacanza. Però adesso ritorniamo con il sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24. Il villaggio è il nostro villaggio globale, questa la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tutte queste tre ore il numero per raggiungerci con SMS e anche con WhatsApp è 349-238-6666, ma c'è anche il mio account di Twitter, come sempre, @MartaCagnola, anche il mio account di Instagram, anche perché tra poco postiamo la foto degli ospiti che sono con noi oggi, @MartaCagnola, anche quello, poi l'hashtag cancelletto ISDV o cancelletto RadioTube. Ma ora scopriamo i temi di questa nostra prima puntata dell'anno, andiamo proprio a vedere le novità 2017 in tanti campi. L'appuntamento con il gastronauta, torniamo a parlare di vini, quale sarà la nuova tendenza? Le tecnologie con Enrico Pagliarini, beh, con Enrico Pagliarini siamo un po' più sulla cronaca perché ci sono aspetti tecnologici che sono davvero d'attualità e cercheremo di capire qualcosa di più in fatto di spionaggio e sicurezza. State insieme a noi. Poi tutti i film in sala nel weekend, come sempre con il nostro Franco D'Assisti, ma non solo. Partiamo con la musica. Cosa dobbiamo aspettarci nel 2017? Se questa città con questa Il Conforto, Tiziano Ferro featuring Carmen Consoli. Il video è stato pubblicato un giorno fa, in questo momento, su YouTube, ha 601.777 visualizzazioni, quindi 600.000 visualizzazioni in un giorno solo per questo nuovo singolo di Tiziano Ferro, tratto da un album che è andato benissimo nell'anno 2016, insomma è stato uno degli album che hanno venduto di più, anche se è uscito alla fine dell'anno. Un anno, quello del 2016, che è stato in realtà dominato da Mina e Celentano, che insomma non hanno mollato in nessun senso, però appunto Il Mistero della Vita di Tiziano Ferro era uscito alla fine dell'anno, ma era anche lui ai vertici della classifica. Tiziano Ferro lo vedremo anche a Sanremo, quindi un po' un ponte tra il 2016 e il 2017. Ma cosa ci riserva il 2017? Quali sono le uscite che dobbiamo attendere in questo periodo per sapere un po' che cosa succederà, per orientarci un po', per saperne di più, per avere delle indicazioni pratiche su tutto quello che ci riserva la musica nel prossimo anno, in quest'anno che è appena cominciato. Abbiamo un'amica, lei scrive su Spettacoli News e su Italiani Oggi, che sono due giornali molto interessanti online, e quindi è giusto anche cominciare ad avere molti esperti anche che scrivono sul web, perché ormai non ci sono più confini, non ci sono più barriere. Lei è bravissima e anche una lunga storia radiofonica. Carmen Guadalaxara, ciao Carmen. Quanti complimenti, buon pomeriggio a tutti, a te Marta, grazie per questo invito e soprattutto a tutti quelli che ci ascoltano su Radio 24. Allora Carmen, io ho detto lunga storia radiofonica qualche istante fa, stavamo facendo il conto di quanti festival di Sanremo, e quanti festival di Sanremo tu? 24 più 2 Sanremo giovani, quindi 26. Vabbè, però ho iniziato da bambina. Ho 44 anni, lo dichiaro, ecco, da compiere, quindi, da compiere ancora, quindi 24, ma iniziando da bambina. Carmen, allora, che cosa dobbiamo aspettarci per questo 2017? Ma un'incetta di uscite discografiche. Tra l'altro, Marta, dobbiamo subito complimentarci con Mannarino, perché appunto esce in questo weekend il suo nuovo disco, un 2017 ricco, carico di tante uscite della musica del nostro paese. Tu lo sai, io l'amo molto e quindi sono sempre attenta e pronta, diciamo, a segnalare, non so, anche sulle le pagine dei quotidiani per cui collaboro, quelle che sono le uscite discografiche. Certo. Mannarino, quarto disco, un tour già sold out per questo 2017 che diciamo deve divenire, un disco intenso e controcorrente, Apre di cielo, è veramente un disco genuino e ricco di verità. Poi naturalmente, Marta, avvicinandoci al Festival di Sanremo, tutti gli artisti che faranno parte di quello che è il cast del Festival di Sanremo. Tra l'altro ci saranno anche due riedizioni per quanto riguarda Nesli e Fiorella Mannoia. Nesli è uscita appunto e Fiorella sono già usciti nel 2016, ma tra le cose interessanti anche appunto di questo weekend, inizio di settimana, c'è l'uscita del disco di Teresa Desio. Non pubblicava un disco da 5 anni e l'ha fatto con un atto d'amore, un atto di devozione verso uno dei suoi migliori amici, che è Pino Daniele, con appunto l'album Teresa canta Pino. Poi è prossimo, e poi sicuramente sarà anche uno dei tuoi prossimi ospiti, Brunori, Sass con A casa tutti bene. Poi siamo pronti per scoprire anche il nuovo album di J-Ax e Fedez, un titolo un po' particolare perché è Comunisti in Rolex, ma soprattutto so che è, tra l'altro, è anche uno dei tuoi preferiti, cioè il ritorno di Enrico Ruggeri con i Decibel. Siamo abbastanza affezionati. Enrico, Radio 24, sì. Ecco, infatti, e anche aspettiamo, naturalmente devono confermare la data, ma dovrebbe essere per fine febbraio, il nuovo album di Bennato con Signore e Signori. Naturalmente, Marta, io so che poi saranno anche i tuoi ospiti, appunto oggi c'è in uscita anche il nuovo album dei Baustelle. Dove sì, ce li abbiamo. Tu hai sempre tante anteprime e tante chicche, sei straordinaria in questo. E infatti L'amore e la violenza, lo sottolineavamo anche prima, è già il numero uno, quindi la classifica l'hanno praticamente beccata subito, sono subito volate al primo posto. Ma che cosa ci aspettiamo da questo 2017? Molti si aspettano l'uscita del nuovo album di Biagio Antonacci, Biagio. È da un po' che dovrebbe uscire con qualcosa di nuovo. La stessa cosa vale per Emma Marrone, che è praticamente a 2 anni da adesso, nonostante abbiano ottenuto un grandioso e straordinario successo con i loro tour che devo dire sono sempre più sold out, già molto molto prima rispetto a quelle che sono le date dei nostri artisti italiani, sintomo che comunque la gente è ritornata ai concerti, i biglietti, devo dire anche i prezzi, sono abbastanza contenuti, e quindi viva la musica italiana, perché noi dobbiamo anche nel nostro lavoro dobbiamo anche supportarla. Ma una cosa molto importante, perché poi noi dobbiamo anche strizzare l'occhio a quello che accade oltre oceano, sono delle uscite molto molto importanti per il mercato discografico. Prendo nota. è proprio di questi giorni, delle ultime di questi giorni, l'uscita del nuovo album di Ed Sheeran, prevista per il 3 marzo 2017, 3 anni dall'ultimo disco, quindi sicuramente tutti i fan, ma anche noi addetti ai lavori, siamo curiosi di vedere cosa bolle in pentola per questo artista che nel giro di poco è riuscito a praticamente a scalare le classifiche di ogni parte del mondo. Ma in arrivo, e devo dire questo è anche un'altra chicca, sono gli U2 con Songs of Experience, che è un seguito vero e proprio discografico di Songs of Innocence, quindi sicuramente un altro bel lavoro discografico carico che ci terrà compagnia per tutto il 2017. Un altro disco che noi aspettiamo con ansia è quello di Depeche Mode, che il cui titolo previsto dovrebbe essere quello di Spirit, e che tra l'altro, Marta, saranno in Italia ad aprile a Roma, Milano e Bologna, e la cosa molto importante è che i proventi dei loro tour saranno destinati a Charity Water, un'associazione che appunto intende fornire acqua pulita alle zone dell'Africa subsahariana, quindi c'è un progetto anche umanitario da parte di questo gruppo, che tra l'altro ha un disco prodotto da James Ford. Poi, per tutti gli amanti del rock, i rocchettari, mi raccomando, imbracciate le vostre chitarre elettriche, perché c'è il ritorno anche del Linkin Park, e poi naturalmente tutta una serie di piccoli progetti, di singoli di varie categorie, dal pop al reggae, all'hip hop, al soul, al jazz, che sono ancora in via di definizione. Carmen, ma noi non abbiamo detto niente del cast di Sanremo, allora ne parleremo poi in RadioTube anche con Daniele Bellasio, che allora l'ho visto a pranzo, a mensa, non è per niente contento del cast di Sanremo, quindi credo che in RadioTube io e Daniele Bellasio litigheremo. Hai già detto, escono le riedizioni, cioè l'album con aggiunto il pezzo di Sanremo di Nesli e di Fiorella Mannoia. Sì. E chi invece altro esce? Ma ci sono delle cose che usciranno in contemporanea al Festival di Sanremo di quasi tutti gli artisti, forse c'è ancora qualche punto interrogativo per qualche giovane, e poi ci sarà l'uscita invece a fine febbraio dell'album di D'Alessio, che uscirà appunto il 24 febbraio e si chiamerà 24 febbraio 1967, perché è la data del compleanno appunto del cantante, che compie 50 anni. Come sei preparata? Chissà come mai sei così preparata. Allora, è l'unica delle mie amiche, Carmen, che confessa candidamente di essere una grande fan di Gigi D'Alessio. Io faccio parte di quelle che lo difendono, non di quelli che poi invece in macchina, quando meno te l'aspetti, l'amica rocchettara ti piazza il CD con Gigi e con le sue canzoni. E ce ne sono, Marta, tu lo sai che ce ne sono tantissime. Sì, di nascosto poi ogni tanto salta fuori un Gigi D'Alessio. Sì, e a proposito di Sanremo, abbiamo sicuramente tantissime uscite discografiche, perché Sanremo è la manna un po' della musica italiana, perché poi i dischi con i relativi singoli che vengono estratti ce li trasciniamo un po' durante tutto l'anno, ed è anche bello, no? Perché poi alla fine riusciamo a estrapolare, quando da un disco riusciamo a estrapolare 3-4 singoli, vuol dire anche che il prodotto è buono, è di qualità, e soprattutto noi che facciamo radio riusciamo a passare, usiamo questo termine, anche a tante canzoni, e questo ci fa molto piacere, perché vuol dire che da un punto di vista radiofonico l'album è piaciuto. E tornando al cast, cosa dire? Io sono molto contenta, perché devo dire che Carlo Conti, che al di là di essersi giocato questa grande carta della conduzione, come dice accidenti, lui, di Maria De Filippi, è riuscito a riportare sul palco dell'Ariston comunque Fiorella Mannoia, Paola Turci, c'è il ritorno di Ron, quindi Paola Turci e Fiorella Mannoia è veramente straordinaria la loro presenza. Poi ci sarà anche Ron, ci sarà Albano, al di là poi di Gigi D'Alessio, ci sono anche i ragazzi giovani, perché comunque noi siamo, la musica oggi è anche figlia dei talent, sarebbe sbagliato non criticarli, perché comunque oggi i talent sono diventati un po' quello che una volta era la vecchia sono i nuovi talent scout, possiamo dire, quello che faceva un tempo la discografia. Ecco, quel lavoro che avrebbe dovuto fare la discografia adesso lo fanno i talent. Abbiamo Sergio, abbiamo Elodie, abbiamo questi ragazzi che sono molto giovani. Poi c'è il ritorno di Chiara Galeazzo, ci sono Giorgia Luzzi e Rage. Quindi c'è un occhio che strizza, diciamo, sicuramente al nazional popolare con i nomi elencati dei big, ma anche al rap, perché c'è Clementino. Punto Regge, un altro esponente del rap, c'è un po' per tutti i gusti. Vabbè, staremo a sentire, Carmen. Io sono molto curiosa di sentirle e svegliamo agli ascoltatori che presto ne parleremo. Anzi, ve lo posso dire, già la prossima settimana noi avremo sentito tutte le canzoni del festival e non ve le potremo cantare, ovviamente, né far sentire, ma vi potremo dire come sono. E sarà veramente così, il primo sguardo al Festival di Sanremo che ci attende. Ne parleremo anche in RadioTube, ve l'ho detto. Carmen Guadalaxara, grazie per essere stata con noi. Sono stata contentissima di averti al Sabato il Villaggio. Torna presto. Un abbraccio e buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori, Marta. Un abbraccio grande, Carmen. Noi ci ritroviamo tra poco con il Gastronauta. Il Sabato del Villaggio. Amica mia, amore, radio, nostalgia, io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai, amore atomico. Enola Gay, orrore amico, errore mio, che non ti ho detto neanche addio, che non ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto, mi dicono. I Baustelle, lo abbiamo detto, usciti e subito al primo posto a Mandalir. Che grande pezzo, un grande disco, L'amore e la violenza, e saranno insieme a noi al Sabato del Villaggio questo pomeriggio. Sono molto molto molto contenta di avere i numeri uno in classifica, ci succede spesso, non so se portiamo bene o se molto più facilmente scegliamo bene. A proposito di ottime scelte, una delle scelte più belle del Sabato del Villaggio è quella di parlare di tendenze in fatto di cibo, è uno dei più grandi piaceri della vita e noi abbiamo quello che ne sa di più, cibo e non solo, perché oggi parliamo anche di qualcos'altro. Bentornato a Davide Paolini, ciao Davide! Ciao, ma questa musica mette, diciamo, un fondo di, come posso dire, di friggicore, di friggiolio, mette una strana sensazione addosso. Vabbè, parliamo di tanto, parliamo di tendenze, e tu mi hai dato, come si dice, un assist. Parliamo non solo di cibo, ma parliamo anche di vino, perché ogni tanto e spesso bisogna anche parlare di vino. E io sto proprio notando questo, che se uno legge i giornali, sente, vede graduatorie ovunque, la graduatoria del giornale più importante americano, di quello inglese, di quello italiano, e vedi sempre nei 30 i soliti noti. Poi invece vai in giro un po' per il mondo, ti rendi conto che non rispecchiano la realtà, perché c'è una tendenza molto forte che sta arrivando e che è quella che, cioè, già è già anni che soggiace, però ora lentamente sta prendendo molto forza, è quella dei vini naturali. Voglio subito dire che naturale non significa niente. Lo facciamo per contraddistinguere, che non sono né i bio, non sono neppure i biodinamici, ma sono quei vini che un produttore ritiene che, secondo lui, siano naturali, perché non usano concimi particolari, che in cantina viene tutto regolarmente, non c'è uso della chimica, e invece molte volte il consumatore li contraddistingue, e chi non li ama perché hanno un'acidità molto alta, proprio data dal percorso di produzione. Insomma, sono i vini che io dico cosiddetti naturali. E è difficile distinguere, perché non è che c'è scritto sulla bottiglia, è anche giusto, non si può scrivere sulla bottiglia naturali. Cioè non esiste un timbro, una certificazione? No, non esiste una certificazione, al punto che voglio raccontare che 4 anni fa o 5 anni fa, non ricordo esattamente la data, in una nota enoteca di Roma hanno fatto irruzione in AS e hanno bloccato delle bottiglie dove c'era scritto vino naturale. È un aggettivo che non si può usare, perché in fondo anche l'altro vino è naturale, perché viene da processi naturali, poi magari c'è qualcuno che dentro mette delle porcherie e quindi non diventa più naturale, però alla partenza il vino è naturale. Poi c'è il biologico ovviamente, perché è disciplinato, ecco qui arriviamo alla domanda che hai fatto, da una certificazione comunitaria che secondo me è veramente, veramente, non dico idiota, ma quasi, nel senso che dà dei limiti di utilizzo dei solfiti altissimo, quindi è inutile che abbiano fatto questa legge biologica. Ma io non voglio parlare di questi vini in cui il produttore con molto liberamente non scrive niente e mette sul mercato dei vini che hanno un sapore molto particolare, perché soprattutto le uve vengono sottoposte a una lunga macerazione, quindi hanno un sapore, se vogliamo, molto vinoso in bocca, e come dicevo c'è anche acidità. C'è chi dice che sono vini imperfetti, è vero, ce ne sono molti che sono imperfetti, però vorrei fare un distinguo, se vogliamo, filologico tra imperfezione e difetto. Il difetto è qualcosa di così evidente, al di là dell'archetipo da cui parte uno, parte per cui dice è un difetto, mentre l'imperfezione è un qualcosa che molte volte è di impercettibile. Io amo le imperfezioni in molte cose, secondo me le cose perfette sono standardizzate. Sono d'accordo con te. È un po' come il tappeto che deve avere il nodo sbagliato, perché altrimenti sarebbe un tappeto fatto a macchina. Invece l'annodatore di tappeti annoda un nodo sbagliato. Ecco, tu mi hai dato un altro assist, perché ti dico che il tavernello, il tanto discusso tavernello, che quando vedo delle persone che fanno delle boccacce sul tavernello, poi magari in una se le mettiamo a fare una degustazione cieca, non sanno distinguerlo, perché molti ci sono già caduti, che quando bevono il tavernello a una degustazione cieca dicono un altro vino, diciamo che sono altri vini. Vabbè, ma voglio passare sopra questo. Il tavernello ne è l'esempio, probabilmente è un vino standardizzato, che è sempre uguale, quindi non ha né imperfezioni né difetti se uno lo beve per 10 anni continuamente. Invece i vini che sono imperfetti hanno una loro personalità. Anche il naso di una bellissima donna, magari con una curva che non è perfetto, quella imperfezione gli dà una personalità superiore. Ecco, io sono convinto che i vini imperfetti molte volte diano delle sensazioni superiori a un vino perfetto, però che non cadano nei difetti. I difetti del vino sono tanti, sono anche molto evidenti, quindi non dico solamente il difetto del tappo, che non dipende dal produttore, ma ci sono tantissimi altri difetti, come maderizzato, insomma, e tanti altri che danno dei saporacci. E allora, guardando in giro per il mondo, arrivo al dunque, vedi che tutto il mondo sta scegliendo in larga parte questi vini naturali. Cioè vai nei grandi ristoranti, quelli che sono nella graduatoria dei 50, in giro per il mondo, e addirittura vedi delle carte in cui hanno solo vini cosiddetti naturali. Perché? Perché c'è questa tendenza al cibo, c'è questa tendenza al cibo, tornare al cibo naturale, tornare anche indietro, questa è anche la verità, insomma, si torna indietro, non c'è niente da fare. Ultimamente sono usciti rapporti, anche copertine di importanti settimanali italiani, che dicono che si torna indietro perché la realtà attuale è talmente imbalsamata, talmente poco ricca di novità o di innovazioni, che tutto è tranquillo. Forse è proprio questa tendenza che trascina, e ti devo dire che con molta soddisfazione, girando ultimamente l'Europa, in ristoranti che sono veramente considerati come oggi come i leader, ho trovato delle carte dei vini tutte naturali, con dei vini italiani a me sconosciuti. Ci dai qualche dritta per trovare, visto che ho capito che è una cosa che dobbiamo conoscere, che non abbiamo delle indicazioni che ci guidino a colpo sicuro. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci racconti un po' dove trovarli e quali scoprire. Ma guarda, dunque, dove trovarli? Non c'è una regione principale, anche se la regione di confine tra la Slovenia e il Friuli, diciamo la parte italiana, è stata un po' quella che è stata un po' l'avanguardia. Ti posso fare dei nomi, Darwin, ti posso fare i nomi come Radicon, che tra l'altro diciamo l'inventore della cantina è morto recentemente, per ora c'è il figlio Sciascia che sta portando questi, diciamo, avanti la cantina. Poi scendendo si può scendere in Veneto, e in Veneto ci sono tutta una serie di produttori, ora mi fai fare uno sforzo di memoria, vado avanti e arrivo in Emilia Romagna, sì, dove c'è due produttori in Emilia Romagna, uno si chiama, mi hai preso di sorpresa, sì, ti ho fatto un'interrogazione a sorpresa. Ma hai fatto un'interrogazione, però ti dico vado in Liguria e andiamo da Walter de Batté, un altro ligure. Poi c'è un altro che si chiama Vie in Emilia Romagna, Donati in Emilia Romagna, vedi, mi sto riprendendo. E poi ancora Amerighi nelle Marche. Io so che ti posso fare le domande a sorpresa, perché so che la risposta la sai, come professore. Poi piano piano recupero. Poi ancora in Liguria andiamo a un'azienda che si chiama Testa Longa, che fa un rossese di dolci acque. Quindi diciamo che ce ne sono tantissimi. I fratelli Vido Pivec, sempre in Friuli. Quindi poi ancora, ora man mano che vado avanti, poi un'azienda che si chiama Prima Terra, sempre in Liguria. Insomma, ci sono tutta una serie di grandi vini. Poi c'è Gravner, che è stato un po', come posso dire, il caposcuola Friuli, sempre a confine con la Slovenia. Quindi te ne ho già detto una decina. Poi l'elenco ormai ne abbiamo già un po' da scoprire. Davide, visto che abbiamo ancora un paio di minuti, ti posso chiedere la chicca, il posto che hai scoperto che ti ha stupito in questo periodo? Abbiamo un paio di minuti, perché di soppiatto è già entrato Enrico Pagliarini in studio. Sì, mi ha stupito una cosa, mi ha stupito un nome: Osteria dei Catari a Monforte. Questo nome mi ha intrigato, devo dire. Molte volte ci sono anche dei nomi che intrigano e tu vai in questi posti. Allora, i Catari, il Catari è un'eresia. Sai che io sono molto preparata sui Catari, perché erano la loro patria era vicino a dove abito io, quindi sui Catari io sono preparata. Raccontami un po'. Allora, a Monforte, in provincia di Cuneo, che è, diciamo, una delle capitali del Barolo. Oltre ad essere la città di Daniele Bellasio, che quindi bisogna stare attenti a come se ne parla. Ah, Monforte, benissimo. Sì. Allora, lì c'era un castello in questa rocca, erano confluiti questo gruppo dei Catari, che, come tu sai, quindi è un'eresia contro la Chiesa, venivano considerati degli eretici. Questo intorno al 1027 e al 1028 è successo, e una famiglia di Monforte, siccome ha voluto prendere questo nome perché questa area, appunto, di Monforte viene chiamata l'area degli eretici dal fatto, appunto, che c'erano i Catari, e intrigato su questo, diciamo, su questa storia, su questo posto, sono andato e ho trovato una trattoria tradizionale, come piacciono a me, dove c'è anche un'insalatina catara, uh-huh, dove il nonno di questa famiglia prepara a seconda della stagione, però gli ha dato questo nome proprio per caratterizzarla, perché dice che ha dei segreti che mette poi in questa insalatina. Però ci sono tanti piatti veramente molto interessanti, ad esempio lo sformatino di topinambur con una crema al parmigiano e uova di quaglia. E poi c'è una carne che è un carpaccio, però loro la chiamano monfortina, perché è proprio carne, una carne cruda albese, però di un allevatore del posto, proprio di Monforte, diciamo a qualche centinaio di metro da dove è questa questa osteria, che poi è tra i tetti questa osteria. Tu entri e c'è anche una scala di legno che porta su un piano, quindi c'è anche questo di molto carino e di molto inusuale, con veramente dei ragazzi in sala molto molto gentili e molto carini. Si mangiano i primi tradizionali, si può mangiare i gnocchetti di patate a raschera, ma anche i tagliati ai porri, e quando c'è il tartufo sono pronti a tagliarti sopra il tartufo, e erano gli unici, diciamo, intorno al 10 gennaio ad avere tartufo, quindi vuol dire che sono anche molto bravi. E per secondo piatto io adoro il coniglio la cacciatora, finalmente l'ho trovato, vo cercando coniglio la cacciatora da lungo tempo, finalmente l'ho trovato. Davide, io ti devo fare una confessione, sono a dieta, ho deciso di mettermi a dieta per un mese, quindi mi hai fatto sognare. Vabbè, allora magari il prossimo sabato cosa ti parlerò d'altro, va bene? No, continua a farmi sognare, mi prendo questo quarto d'ora così di dolci fantasie. Ci ritroviamo il prossimo sabato, grazie Davide, ciao. Un abbraccio, grazie a Davide Paolini, ci ritroviamo il prossimo sabato, c'è già qua silente... zittissimo Enrico Pagliarini accanto a me, proprio non sta neanche respirando per non far rumore, come la canzone, ma non dice una parola, sta proprio zitto. Devo parlare? Allora, dopo. Avete capito? Cioè, dopo, tra poco, la pausa. Il sabato del villaggio. James Bond, questa cosa, cioè proprio due note e ho visto Enrico che mi guardava e faceva James Bond, sì. Filippo in regia, mi ha detto 007. Non mi ricordo però quale, l'ultimo. Writings on the Wall, questa era quella di Sam Smith, molto bella. Sì, sì. Molto, beh, soprattutto molto bella. La musica, più che il film. No, vabbè, il film me lo ricordo. Era un po' muscolare. Diciamo, allora, che agli ultimi James Bond, uscendo, dicevo, il prossimo non lo vado a vedere. No, addirittura. Poi ci vado. Poi per adesso ci sono sempre andato, però... Tu preferivi quindi James Bond di strategia e non quelli di tecnologia? Perché questi dovrebbero essere molto tuoi. Ma le storie sono sempre le stesse, cioè inventatevi qualcosina di nuovo, no? Ah, signor, perché, niente, Enrico Paolini, Enrico Pagliarini. Paolini. Dopo Davide Paolini, Enrico Pagliarini, perché non lo chiamo mai Enrico Pagliarini, allora diciamola bene, al paglia non piace James Bond. Sì. Allora, no. Enrico, perché James Bond? Perché mi è venuta questa idea un po' balzana? Perché vogliamo parlare del caso della settimana, questa che è stata definita una spy story, in realtà bisogna ridimensionare un po' le cose. Prima di arrivare a questo volevo dare una notizia che ho letto sul Corriere delle Comunicazioni, Very Bello, ve lo ricordate Very Bello? Ma certo, il portale Very Bello, esatto, avevamo preso in giro tutti. Esattamente, forse il sito più preso in giro nella storia, italiana sicuro, dopo italia.it, un sito presentato, nato all'interno del Ministero dei Beni Culturali, che era stato presentato come il sito che avrebbe portato in Italia milioni di turisti, ha chiuso. Se uno va su verybello.it c'è scritto che arriverà un nuovo sito, però pare che sia una società svizzera che si è presa il dominio, quindi non... perché era talmente irresistibile. Esattamente. Sì. Niente, Very Bello ha chiuso. Allora, la spy story di questa settimana, sappiamo i punti di riferimento sono gli Occhio Nero, questi fratelli con questo nome da spy story. Certo. Allora, però in realtà dal punto di vista tecnologico, tecnico, stiamo parlando di un normalissimo caso di phishing, poi magari ribadiamo che cos'è il phishing. Okay. Sicuramente hanno fatto notizia alcuni elementi. Beh, prima di tutto perché i presunti hacker sono italiani E molto spesso invece dietro a queste organizzazioni che spiano i computer, che rubano informazioni in rete, ci sono organizzazioni che sono dei paesi dell'est, della Cina o comunque insomma di paesi lontani dall'Italia, o hacker italiani che usano server di alcuni paesi strani. Quindi questo è il primo elemento. Poi, soprattutto nelle primissime ore, sembrava che fossero stati rubati dati anche da computer, da utenze molto importanti. Addirittura c'era chi aveva detto è in pericolo la sicurezza dello Stato, perché era saltato fuori il nome di Renzi, Draghi, Mario Monti. Ecco, spieghiamo e diciamo che nulla di tutto ciò è accaduto. Okay. A proposito di Renzi, Draghi, Monti, non sono state rubate informazioni da queste utenze. Ci sono stati dei tentativi, e qui veniamo al phishing. Che cos'è il phishing? Scritto col PH. Esattamente. Io sparo in rete una migliaia di email, e così come si fa con la pesca a strascico, qualcuno ci casca nella rete. Okay. Questa è una normalissima operazione. Tra l'altro, dal punto di vista tecnico, io ho parlato questa settimana con una decina di esperti a vario titolo che comunque hanno seguito questa vicenda, e tutti mi hanno detto: guarda che qui non c'è nulla di complicato, sia per quanto riguarda il virus, cioè il malware, questo software che in alcuni computer effettivamente è stato installato e ha rubato delle credenziali come password, come file, come email che sono state scambiate, ma nemmeno le competenze di questi due. Il fratello è un ingegnere nucleare, sicuramente capace di programmare, ma non stiamo parlando di un hacker professionista, quindi nulla di tutto ciò. Però quindi diciamo ci che sono giornalisticamente alcuni era molto affascinante, è stata un po' sì, amplificata. Sì, diciamo che ci si è lasciati un po' prendere, soprattutto nelle primissime ore. Poi devo dire che bisognerà aspettare, ci sono un sacco di file, un sacco di elementi che devono ancora essere portati in Italia, perché sono su server americani, c'è una rogatoria, quindi potrebbero esserci cose interessanti, però potrebbe anche sgonfiarsi in... È vero che 2000 utenze sono state effettivamente attaccate, ma quando parliamo di casi eclatanti, normalmente parliamo di attacchi su milioni di computer. Quindi qui stiamo parlando insomma di un caso effettivamente anche tecnologico. Però la cosa interessante, ed è giusto approfittare anche di questa notizia, è che anche nella semplicità di questo attacco, che comunque è durato anni, e chissà quanti ce ne sono in atto e nessuno se ne sta accorgendo. C'è chi, gli esperti di sicurezza dicono che ci sono aziende sotto attacco per anni, dalle quali viene rubata proprietà intellettuale, non si accorgono di nulla, e poi magari scopri che in un paese lontano lontano viene fatto un prodotto molto simile. Certo, e questo è un problema proprio a livello di sistema. Però dicevo, è interessante l'ingenuità e la semplicità di alcune cose che sono accadute. È un po' come quando c'è una rapina, uno entra magari in una banca con il cacciavite sotto l'impermeabile e dicendo dice, ho la pistola. Pistola. Ecco, ci sono degli elementi molto, molto simili, perché effettivamente insomma, gli strumenti utilizzati erano molto semplici. Che cosa è successo sostanzialmente? E che cosa potremmo fare? Non dico tutti. Però non ci vogliono effettivamente competenze, perché molti di questi elementi si trovano sul mercato nero di internet. Ci vuole un po' di tempo, bisogna conoscere certi siti, ma si trovano alcuni elementi. Costruisci e crei il malware, cioè il virus. Il virus. Mm. Quello che tutti conoscono come virus. Sembra il titolo di una dispensa settimanale. Costruisci il tuo malware. Prima settimana in regalo. Non è difficile. Ecco, qui qual è il problema? Che se ti compri sul mercato un virus conosciuto, tutti gli antivirus te lo bloccano. Certo. Se tu invece hai qualche competenza... Ripetiamo, mercato non legale. No, stiamo parlando di cose illegali che non si possono fare. Però diciamo che riesci a fare questa cosa. Lo invii via mail come allegato su un tot di computer. La tua banca ti ha detto... Esatto. Speri che qualcuno apra, e effettivamente se tu... Poi questa è l'esperienza, dimostra che alcuni cadono nel tranello. A quel punto, se tu riesci a fare in modo che una persona installi, perché c'è un allegato alla posta elettronica, installa questo file, il file si inserisce sul computer, e in qualche modo tu prendi il controllo di quello computer e puoi fare un po' di cose, puoi sapere che cosa viene digitato con la tastiera, puoi prelevare materiale, certo. Puoi ad esempio andare a vedere nella rubrica di posta elettronica degli indirizzi che potresti sfruttare per mandare ulteriori email. E a quel punto, se tu usi l'indirizzo di quel computer e mandi una mail alle persone che sono nella rubrica, forse l'attacco diventa sempre più facile. Perché? Perché se uno va nel mio computer e manda una mail a te, probabilmente tu clicchi sull'allegato di una mail che ti ho mandato io, certo, perché mi conosci. Perché ti conosco. Però da un certo punto di vista stupisce che ci siano molte persone ingenue che hanno cliccato su file con dei nomi molto banali, molto assunzione.7z. Uno ha cliccato sopra e gli si è installato. Segnalazioni.doc e varie altre cose, eccetera. Comunque alla fine sono tutti file che finiscono con .exe, che è un file eseguibile sul computer, ma senza andare in tecnicismi, comunque sono file che una volta che uno ci clicca sopra si autoinstallano e tu non ti accorgi di niente, vedi che ti si apre un file, però poi tutto il resto non lo vedi, non certo. Hai il controllo. Che cosa impariamo da tutto ciò? Beh, la cosa più importante è che, sì, l'abbiamo detto tante volte, avere sistemi aggiornati, avere gli antivirus, poi si potrebbe aprire un dibattito su Windows e Mac, ma magari lo facciamo in un'altra puntata. Lo facciamo, sì, su Windows e Mac, e questo vale anche per i telefonini, dove Windows non è di fatto presente, c'è Android e iOS, che è il corrispondente insomma di Mac, che comunque è un sistema della Apple. Ecco, dicevo, antivirus, eccetera, ma alla fine quello che ancora oggi conta molto è l'uomo o la donna che apre il file, perché ogni tanto qualcosa sfugge a questi sistemi di anti-phishing, antivirus, e se tu ricevi un file da un indirizzo non conosciuto, pensaci due volte prima di aprirlo, perché poi è così che accadono queste infezioni, che in questo caso sono state, è vero, prolungate, però su 2000 utenze. Io sorrido perché è arrivato un WhatsApp al 349-238-6666 con una battuta un po' da nerd, che possiamo capire solo noi nerd: come costruire un malware di Salvatore Aranzulla. Ah, sì. Che è l'esperto tipico che risolve quando, tutti i problemi. Sì, quando uno non sa cerca che qualcosa cerca su internet, Aranzulla, spesso accappare, dice, esatto, sì, sì. Dà la risposta. Enrico, ci risentiamo tra qualche istante, traffico e poi ancora su questo argomento, tra poco. Il sabato del villaggio. Beh, c'è un altro bel messaggio al 349-238-6666. Il peggior virus sta tra tastiera e sedia. Esatto. Noi, bravissimo. Allora, ribadiamo Enrico, che ci sono molti elementi di questa vicenda ancora oscuri, quindi aspettiamo di capire e comprendere, però dal punto di vista tecnologico, ripeto, cosa abbastanza semplice. Poi le cose diventano importanti perché, tornando all'esempio di prima, se uno entra a Palazzo Chigi con il cacciavite sotto l'impermeabile e questi credono che ci sia una pistola e tu magari prendi ostaggio, adesso sto esagerando, ma certo, per fare l'esempio, certo, prendi ostaggio una persona importante, certo che questo, cioè, ha una rilevanza diversa. Tecnologicamente non c'è una grande raffinatezza, no, dici, però l'effetto, esatto, può essere dirompente. L'effetto, esattamente, infatti, e da un certo punto di vista anche qui molti esperti si sono stupiti che all'interno di ministeri una segretaria oppure anche altre persone abbiano aperto allegati in modo così ingenuo. Tutti dovrebbero avere, oltre che avere tutta una serie di infrastrutture per evitare che ti arrivi sul computer, certo, perché attenzione, guardate che sulle utenze di tutti noi, Matteo Renzi compreso, Draghi, tutti i giorni arrivano cose del genere. Il problema è se poi questi attacchi vanno a buon fine, certo, perché certo, se non vanno a buon fine, i tentativi di attacco valgono molto poco, certo. Ci sono miliardi di email, sapete che il 90% delle email che girano su internet sono spam o phishing. Incredibile, il 90%. Se noi, a noi tutti i giorni arriva l'elenco di email che i sistemi del Sole 24 ore ci blocca, e se uno va a vedere quante sono un numero pazzesco, e tra questi ci sono sicuramente molti tentativi di attacco. Ecco, ma nessuno direbbe mai che noi siamo stati attaccati. Ci sono tantissime, ma questo è normale, questo è internet. Perfetto, perfetto. C'è qualcosa ancora che dobbiamo saper fare, Enrico? No, avere... avere testa. Dedicare anche un po' di tempo ad aprire le email. Perché effettivamente sì. Questo è un uno degli elementi che vengono spesso citati dagli esperti di sicurezza è che se uno ha un numero di mail molto molto elevato durante il giorno, purtroppo, perché sappiamo tutti che magari uno non ha tempo, molto facilmente apre, anche perché ha tirato, volevo solo citare i nomi dei file, certo, che, certo. Che risparmio.7z, eccetera, eccetera. Pagati, quindi sono anche nomi che attirano. Sì, magari una persona riceve moltissime mail, si occupa di quelle cose lì e... Addirittura c'era uno che si chiamava allegato.zip, approfondimento, regione. Magari tu spari nel mucchio e becchi alcuni che lavorano con una regione, tu vedi un allegato che si chiama regione e forse non fai nemmeno caso a tutto quello che segue l'allegato. Certo. Se c'è punto exe, appunto, ribadiamo, anche se il sistema tecnologico dovrebbe non è... bloccare, esatto, tutto, a volte qualcosa. A volte... È successo anche qui che ci è arrivata una mail dai nostri amministratori molto bravi, molto rigorosi, che ci hanno detto: ragazzi, sta girando questa mail, non cliccate sull'allegato, perché a volte sembrano innocue e sembrano attendibili. Sì. Enrico, l'ultimo consiglio che ti voglio chiedere è quello di 2024. C'è un fantastico podcast, mm-hmm, che potete utilizzare con l'app di Radio 24. Abbiamo parlato anche di questo, ma abbiamo fatto una chiacchierata molto bella su come si sta trasformando la pubblicità online. Interessantissimo. Molto molto bella, molto molto bella. Assolutamente. Sì, sì, sì. Anche sul ruolo della geolocalizzazione. Perché molto, tu vai in giro molto, con lo smartphone e la pubblicità ti insegue. Adesso invece parliamo di una cosa che interessa molto anche a te, sai perché? E io rimango qua, non mi muovo. Perché parliamo di cinema. È la madre di mia figlia. Non è vero, e lo proverò. Guarda, è lei. Hai apertamente disubbidito agli ordini. Mi stai spaventando. Quando la guerra sarà finita, non importa dove andrò. Ehi, che fine ha fatto il mio bacio? E torniamo con questa puntata del Sabato del Villaggio a scoprire quali sono i film in sala del fine settimana. Intanto questa storia che mi sembra molto intensa, una storia d'amore o chissà, insomma, lo chiediamo subito al nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco! Molto intenso, ciao, ciao Marta, un saluto a tutti gli ascoltatori. Molto intenso e anche abbastanza galeotto, dicono i gossip, insomma, il film sul cui set, anche se poi ci sono state smentite, eccetera, Brad Pitt e Marion Cotillard si sono piaciuti, diciamo così, per usare insomma un eufemismo, poi se hanno pastrugnato o no non lo sappiamo. Lied però è una storia in cui ci si finge coppia o si è coppia davvero anche nel film, perché è la storia diretta da Robert Zemeckis di due spie nella seconda parte della seconda guerra mondiale. Siamo nel 1942, un commandante di aviazione franco-canadese, appunto Max Fatan, che è Brad Pitt, arriva a Casablanca e qui riecheggiano, come dire, no, altri sospiri e altre spie di altri tempi cinematografici, per conoscere Marianne Bossejour, interpretata da Marion Cotillard. Marianne è un'altra spia molto brava e molto bella. I due dovranno fingersi marito e moglie per riuscire a tendere la trappola mortale all'ambasciatore tedesco. Ora, dovranno fingersi marito e moglie, ma non è mica facile essere Brad Pitt e Marion Cotillard, fingersi marito e moglie con quel che ne consegue e non provare un'attrazione, come dire, reale l'un l'altro. E qui in questo gioco si situa il film di Robert Zemeckis, che è un film solitamente di spie, solitamente classico, però a mio modo di vedere con una grande sceneggiatura, con un impianto molto classico, molto tradizionale, e però con due attori che respirano divismo, diciamo, no, un po' da tutti i pori. Quindi un film che francamente a me è sembrato molto ben scritto e molto ben diretto, con due interpreti che nel loro campo in questo momento sono forse il massimo. C'è un altro film con un altro titolo inglese, The Founder, ne sentiamo parlare, sentiamo gli spot radiofonici. Di cosa si tratta, Franco? E questo The Founder è un altro film che, come dire, sposa una tradizione americana e non solo, quella del biopic, del film biografico, che racconta in questo caso la nascita e soprattutto l'affermazione di un impero, l'impero degli hamburger che tutti conosciamo oggi come McDonald's, come è nato, chi è stato che lo ha fondato, con quali logiche si è affermato nel mondo. E tutto questo chiaramente diventa una sorta di metafora per raccontare l'Occidente e, come dire, un sogno americano una volta, poi il capitalismo più rampante in un altro caso. In questo forse non così dissimile da alcuni elementi di The Wolf of Wall Street di Scorsese recente, che lo raccontava a cose fatte in un certo senso. Qui abbiamo un Michael Keaton gigantesco che appunto interpreta il ruolo di Ray Kroc, che era un venditore di frullatori che conobbe i fratelli McDonald, che avevano avviato questa vendita di hamburger in un piccolo negozio di San Bernardino nel sud della California, ma non avevano capito quanto importante potesse essere il commercio, la commercializzazione, la formula per far portare quei panini non solo in tutti gli Stati Uniti, ma poi davvero alla conquista del mondo. E questa parabola c'è dentro, appunto, il racconto dell'America di quegli anni e dell'Occidente di oggi. Per ultimo, un film di cui si parla tantissimo, questo The Silence. Franco, a chi lo consigliamo? Ma guarda, lo consigliamo intanto a chi vuole con il cinema. Un collega in settimana mi ha detto: questo è un film da vedere di mattina, perché intanto dura 2 ore e 40 minuti, quindi ci vuole anche una freschezza, però è un film straordinario, è un film straordinario. Intanto la firma Martin Scorsese, che dovrebbe essere un po' una garanzia. Abbiamo citato poco fa The Wolf of Wall Street. La storia di due missionari portoghesi che partono alla ricerca del loro mentore, che era partito tanti anni prima per il Giappone, per evangelizzare il Giappone, e da tanto tempo ormai non si hanno più notizie. Allora loro partono e si troveranno di fronte, siamo nel XVII secolo, non è che prendono l'aereo, partono con i mezzi che ci sono e si trovano di fronte alla situazione che si trovano. È un progetto lungamente accarezzato da Martin Scorsese, pronto sin dalla fine degli anni Ottanta, doveva essere il suo film successivo a Kundun, poi per una storia di finanziamenti, perché è un film chiaramente molto ricco e costoso, non se ne fece nulla. Però devo dire che a livello visivo, a livello di fotografia, a livello di poetica del cinema, a livello di profondità della storia, è un film veramente straordinario, quindi The Silence assolutamente promosso. Allora Franco, l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con La Rosa Purpurea. Ci sentiamo Marta, voglio solo dire che alla Rosa Purpurea parleremo anche di James Bond, a parte che giochiamo con un cofanetto straordinario di un autore, insomma, quindi state pronti, ma parleremo di James Bond perché ci sono novità sul futuro, si sta preparando il 25esimo film di Bond, ci sono novità che ci arriveranno direttamente da Londra, quindi vi aspettiamo alle 18. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo eccelle, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il sabato del villaggio. E eccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, come sempre il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. La terza ora, quella dalle 17 alle 18, con il nostro consueto appuntamento con RadioTube, tutta l'attualità della rete e dalla rete. Per tenerci compagnia, 349-238-6666 è il numero per gli SMS e anche per i WhatsApp, cioè come sempre anche il mio account di Twitter chiocciola Marta Cagnola, gli hashtag cancelletto ISDV, cancelletto RadioTube. Ma scopriamo insieme i temi della seconda ora. Avremo con noi il gruppo numero uno del momento, proprio i numeri uno, dopo vi dico chi sono. Se ci avete sentito nella prima ora già lo sapete. Non possiamo non parlare di saldi, lo facciamo con Giulia Crivelli, i libri del momento con Alessandra Tedesco, ma prima abbiamo con noi Maria Luisa Pezzali. Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno, o mai accettato, e di quelli che apri poi piangi, che sei contenta e non fingi. In questo giorno di metà settembre ti dedicherò al regalo mio più grande. Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te, per ricordarti che il mio amore è importante, che non importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire però so nel cuore la tua presenza, è sempre arrivo e mai partenza. Tiziano Ferro vuole fare un regalo importante, non un regalo qualunque. Non è facile azzeccare i regali. Ciao Maria Luisa Pezzali è con noi. Ciao Marta, bentrovata, un saluto a tutti. Io ho l'impressione che Tiziano Ferro i regali li azzecchi, però i regali, tu sei stata contenta dei regali ricevuti? Ma io devo dire di sì, quest'anno veramente contenta. Sì, anch'io. Quindi ok, chissà invece se i nostri ascoltatori lo saranno. In ugual modo, insomma, qualcuno di insoddisfatto ci sarà, perché... Dai, cosa deve capitare che non sia proprio azzeccato? Ma perché torniamo a parlare dei regali di Natale? Perché in questo periodo, Marta, di solito chiudiamo, come dire, il capitolo regali di Natale, apriamo quello dei saldi, siamo già del resto al secondo weekend di saldi. Non lo chiudiamo invece il capitolo del Natale, anzi in qualche modo lo colleghiamo a quello dei saldi, parlando di un fenomeno che sta prendendo piede, quello del regifting. In parole povere, la rivendita dei regali non graditi. Beh, devo dire che effettivamente magari bisogna farlo un po' con discrezione, perché qualcuno che ci ha fatto un regalo non gradito potrebbe rimanerci male, però perché tenersi a casa delle cose che non ci piacciono? Esatto, magari nuove con l'etichetta ancora attaccata, rivendiamole, guadagniamo un po' di soldini per utilizzarli poi nei saldi. Sono d'accordo. Allora, online è un fenomeno che sta raggiungendo dimensioni importanti, noi di quello parliamo oggi. Prima però vorrei sottolineare che esiste anche offline, basta fare un giro nei vari mercatini dell'usato, nei punti vendita delle catene dell'usato, ne cito una su tutte, una delle più grandi, Mercatino. Sul sito mercatinousato.com si trovano i negozi che sono sparsi veramente in tutta Italia, basta fare un giro lì, dicevo, e si troveranno molti prodotti nuovi di zecca, frutto specie proprio in questo periodo, di regali non graditi oppure di doppi regali, perché capita anche di ricevere un regalo che sia già, e quindi in quel caso, insomma, chi ci conosce molto bene sa che desideriamo qualcosa e magari più di una persona ce la regala. Esatto, noi abbiamo detto ce ne occupiamo online perché ci viene in soccorso con alcuni dati significativi eBay, che ogni anno monitora il fenomeno. Quest'anno ci parla di 3 milioni di italiani, pensa Marta, pronti a rivendere i regali in rete. Però ci facciamo raccontare tutto da Irina Pavlova, che è la responsabile comunicazione di eBay Italia. Buon pomeriggio Irina. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Grazie dell'invito. Allora, che cosa si rivende di più? Allora, parliamo prima effettivamente del fenomeno che avete ampiamente coperto, questo regifting. In realtà è stato rilevato circa 10 anni fa ormai e si ripete ciclicamente sempre in questo periodo, subito dopo Natale, e ogni anno registra proprio un aumento vertiginoso di questa tendenza. Pensate che quest'anno questa tendenza è cresciuta del 14%, proprio la tendenza del regifting online. Cosa vendono? Allora, noi vediamo su eBay, ci sono già migliaia di doni messi in vendita dai privati perché doppi, sbagliati o sgraditi, e non mancano i classici articoli di abbigliamento e accessori come le borse, guanti, sciarpe, orologi, a chi non è capitato di ricevere una sciarpa, un'ennesima sciarpa magari quest'anno, i pezzi di arredamento e di design, oggettistica per la casa, i piccoli elettrodomestici, i famosi blender, tostapane, e i numerosi doni dal mondo tech, dalle fotocamere digitali agli smartphone. Queste, diciamo, sono le categorie che maggiormente coperte da questo fenomeno del regifting online su eBay. E la dicitura più ricorrente qual è? Una cosa curiosissima, perché proprio vedi il grado di sincerità, perché alcune persone proprio notano, anzi specificano, che si tratta del regalo doppio. Alcuni si spingono nella sincerità dicendo regalo non gradito, specificando anche da chi. Regalo non gradito da mio padre, regalo bellissimo, non gradito dalla mia vicina di casa. Alcuni addirittura dicono, era un regalo, il classico dell'emozione, avendo causa regalo doppio, la dicitura più ricorrente per esempio per i doni del mondo tech. E ci sono anche curiosità della serie, avendo questo anello che mi è stato regalato alla vigilia di Natale, ma ci siamo lasciate con il fidanzato subito dopo. Beh, quindi, però ha fatto bene a non restituirglielo, come sono cattiva. Irina, ci sono dei consigli invece per chi volesse vendere i propri regali? C'è un modo per venderli in maniera più efficace? Assolutamente, ovviamente la tecnologia ci viene in soccorso, tutti abbiamo gli smartphone ormai, quindi anche la procedura di vendita è velocissima, basta scattare una foto, ovviamente teniamo un attimo di galateo del regifting, quindi togliamo sicuramente magari una cartolina, perché ci è capitato di vedere su eBay anche, anzi alcuni prendevano in giro il fatto che regalo manco scartato, quindi ancora con la cartolina che la sto vendendo, ovviamente è un po' una presa in giro, però cerchiamo di evitare questi gas, togliamo sicuramente la carta, scattiamo una foto, diverse foto più accattivanti possibile, cerchiamo di dare il massimo risalto alla descrizione, quindi specifichiamo che si tratta del brand, di quale brand si tratta, perché lo stiamo vendendo, perché appunto è l'oggetto nuovo mai utilizzato, e quindi è un'ottima opportunità di risparmio per chi ha intenzione di comprarlo, e poi fare un attimo un giro anche su eBay per vedere quali sono i prezzi di prodotti simili, perché ovviamente è giusto anche orientarsi e impostare il prezzo di partenza, perché ovviamente tu puoi vendere a prezzo fisso dicendo che meno per esempio di 50 euro per questo oggetto non sono disposto e quindi imposto l'unico prezzo fisso il 50 euro, oppure se l'oggetto è particolarmente raro è consigliabile addirittura far partire un'asta a partire da un euro, così il prezzo poi viene stabilito direttamente dalle persone che parteciperanno all'asta. Beh, però ci hai dato un'idea, Irina, il regalo impacchettato, Marta, potrebbe essere il fenomeno anche questo nei consumi delle mystery box, quindi come dire, vendi anche la sorpresa, magari dai qualche indizio sul mittente, una vecchia zia, allora magari ha poco acquile. Vendo acquile, regalo impacchettato. Però, esatto, amica del cuore invece potrebbe averci visto giusto e quindi potrebbe essere... Esiste anche il nome, questo è il Secret Santa, il famoso Secret Santa che si popola nei paesi come Gran Bretagna, esatto. Dove appunto non sai chi è il destinatario, esatto. Anzi chi è colui che regala. Irina, voi avete indagato anche poi come vengono riutilizzati questi soldi, è così? Sì, allora dalla nostra ricerca abbiamo scoperto che la metà dei regifter in realtà metterà da parte i guadagni nel salvadanaio familiare per risparmiare e poi utilizzare questi soldi in un altro momento dell'anno. Invece una persona su tre utilizzerà i fondi ricavati per comprare qualcosa di nuovo e utile per sé. Ecco quando la stagione di regifting è diciamo profittevole non soltanto per chi vende ma anche per chi acquista, in quanto il costo dei doni messi in vendita ovviamente possono arrivare ad essere inferiore il prezzo di vendita normale anche di diverse percentuali, 70-80%. Grazie Irina per essere stata con noi. Allora devo dire che questa idea mi ha già conquistato. Io non ho niente da rivendere, ma magari andrò a curiosare i regali doppi degli altri, magari riesco a fare qualche affare. Grazie Irina per essere grazie stata con noi. Maria Luisa, a proposito di consigli, torniamo come sempre a consigliare essere avere. Beh, come sempre domani alle 22. Un saluto a tutti, ciao Marta. Il sabato del villaggio. Lei ti ha consumato come un disco dell'estate. Ti ha guardato correre su spiagge bianche deturpate. Eri tu il cadavere portato a riva dalle onde. Una voce sull'iPhone che parla a caso e non risponde. Stai bene così. Con noi i Baustelle, L'amore e la violenza è davvero l'album del momento, loro sono dei personaggi straordinari, tra poco in nostra compagnia con noi al sabato del villaggio, però ve l'abbiamo promesso, parliamo di un argomento che ci appassiona moltissimo, li abbiamo un po' citati con Maria Luisa Pezzali, i saldi è un grande momento nel quale però si possono commettere gravissimi errori. Beh, ovviamente ne parliamo con il sorriso e ci è venuta a trovare proprio fisicamente con noi, che bello, Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, buon pomeriggio. L'abbiamo a fatta tutti. Scendere che stava lavorando ai piani di sopra. Ma in realtà venivo dalle sfilate. Ah, magari, venivi dalle sfilate. Ah, dopo ci dici qualcosa, cosa hai visto di bello. Allora, dacci qualche indicazione, dacci qualche istruzione per l'uso. Allora, prima di tutto godiamoci di questi saldi finché esistono, perché purtroppo la tendenza è di avvicinarci al modello americano-inglese, dove praticamente ci sono i saldi un po' tutto l'anno e non c'è più questo rito di gennaio e di luglio di appunto finalmente comprarsi quella cosa che abbiamo concupito davanti alle vetrine. Quelli di quest'anno sono assolutamente regolari, anzi adesso siamo ancora in una prima fase, chi avrà la pazienza di aspettare vedrà ulteriori ribassi, con il rischio però di non trovare più la propria taglia o la propria misura. Guarda, io l'ho fatto la scorsa settimana, ho trovato una giacca che mi piaceva tantissimo, però era un po' grande, però fortunatamente era una nota catena. Cosa ho fatto? Ho preso la macchina, sono andata in un altro negozio e l'ho trovata della taglia giusta. Ecco. Vabbè, avevo tempo da perdere. No, però insomma, secondo me gli approcci sono un po' due. O uno si toglie proprio lo sfizio di quella cosa di stagione, che è di stagione per definizione, quindi sappiamo che un pochino ci stuferà, però la paga meno e quindi perché no? Oppure poi, chi lo sa, magari continua a piacere anche per più di una stagione. Ecco, un po' l'impressione che fino a qualche anno fa fosse questo è proprio dell'anno scorso e non si poteva più vedere. Adesso forse anche complice la crisi, abbiamo cominciato anche a rimetterle un po' le cose, non è più scandaloso se proprio hai la cosa dell'anno prima. Non solo, ci sono anche delle tendenze che chissà se per caso, perché insomma si sono messi tutti d'accordo gli stilisti, ma non credo, è più un caso, però sta succedendo che poi ci sono delle tendenze che durano più di una stagione. Per esempio, se dovessi consigliare qualcosa, un capo in particolare o uno stile, ecco, i fiori per esempio li si vede adesso nelle vetrine, li abbiamo visti dappertutto, sui cappotti, sulle borse, sulle scarpe, e li sto rivedendo nelle sfilate, che poi sono sfilate uomo, quindi immaginate, li rivedremo sicuramente anche nelle sfilate di febbraio, che vi ricordo sono quelle che ci fanno vedere i capi del prossimo autunno-inverno, quindi certo, vuol dire che resisteranno altre due stagioni. Certo, quindi fiori li compriamo. E poi ecco, l'altro approccio invece è più saggio, di andare a prendere quei capi che magari sono più da tenere poi nel guardaroba, che siamo sicuri che terremo nel guardaroba, però attenzione, perché in generale le cose molto classiche, molto che appunto non sono senza stagione, sono quelle che difficilmente vanno in saldo. Però magari troviamo il cappotto molto classico di un colore bizzarro, e allora perché no? Stesso discorso per le scarpe, magari troviamo dei modelli che in realtà sono passepartout, dei modelli da sera, magari nel colore di stagione, ma le prendiamo lo stesso, non importa, basta che siano comodi. Sì, tanti dicono cappotto proprio, perché il cappotto sì, è una di quelle spese importanti. E poi punterei ai piumini leggeri, perché con questo tempo pazzo che abbiamo adesso, vabbè, naturalmente sono tutti contenti, perché tutti quelli che devono vendere i capi invernali perché è arrivata quest'ondata di freddo, però in questo clima un po' pazzo con grandi sbalzi di temperature, i piumini leggeri sono ottimi per stratificare, che tra l'altro è un'altra tendenza, e quindi piumini leggeri che li hanno tutte le catene, tutti i marchi, prendeteli, uno nell'armadio ci sta sempre, anche di un colore strano, tanto magari lo mettete sotto come un'imbottitura e ovviamente con 50, 60, 70% di sconto. Fatto anch'io, l'ho comprato turchese. Io sono sempre vestita di nero, non mi vedi mai col turchese, però vabbè, era in saldo in quella nota marca giapponese che ci piace molto e l'ho comprato turchese, perché no? Ancora consigli, Giulia? Ma l'altra cosa che comunque vi consiglio è prendetelo anche qui come un gioco, perché io ho visto delle scene, perché io il primo giorno sono andata a cercare dei pantaloni di pigiami che mi piacciono molto, ma aspetto sempre i saldi, e c'erano le persone che si strappavano le cose. Allora, un po' quello che abbiamo detto prima, insomma, stiamo forse diventando, la crisi ci ha resi un po' più saggi, sappiamo che si può scegliere con calma, si possono tenere meno cose nell'armadio, leggevo oggi, ma forse sicuramente se ne è parlato anche qui a Radio 24, di persone che oggi si sfidano a vicenda ad avere il minimo numero di capi possibili, si arriva a 15 capi per tutto l'anno, tanto basta lavarli. Quindi adesso questo è un estremo e io mai vorrei. No, io mi diverto ancora. Esatto, ecco. Però ecco, prendiamolo appunto, non che se non ci accaparriamo il saldo succede chissà cosa. Guardate che già nelle parti dietro dei negozi e tra, secondo me, 2-3 settimane in vetrina ci saranno tutte le cose nuove, quindi prendete, sì, appunto, o per sfizio o per bisogno, ma se no pazienza, riflettete anche, se mi sentono i negozi, riflettete anche su quanto sempre pieni sono, sì, i nostri armadi. Sì, perché poi cerchiamo anche a volte di non lasciarci così influenzare dal fatto che un saldo affascinante ci può spingere. Io personalmente, a comprare... esatto, io alla fine finisco con lo spendere la stessa cifra, va bene, ho il doppio dei capi, però alla fine non ho risparmiato, quindi... Oppure a me capita di comprare invece tante piccole cose e di dire, ma magari potevo comprarmi una cosa importante e che mi sarebbe rimasta. Sto diventando un po' più saggia, ma non tanto. Giulia, hai detto sfilate. Cosa hai visto di bello? Sono iniziate... A parte dei ragazzi, immagino tanti. Guarda, sono reduce dalla sfilata di Dolce Gabbana e tra l'altro, per chi conosce Milano, è in una via abbastanza ampia, ma sono arrivate, come sempre non si riusciva a raggiungere perché c'era questo, io non lo conoscevo, Austin Mahone, cantante americano nato nel 1996. Uff. A 9,9 milioni di follower su Instagram, e la sfilata è stata bellissima, devo dire, perché lui cantava in passerella e poi sfilavano questi altri personaggi che facevano impazzire le ragazzine, tipo Beatles negli anni 60, che anche qui io mi sono letta scrupolosamente il file che ci hanno dato perché non li conoscevo, e hanno sfilato con... Io vedo le foto, sono tutti ragazzini. Sono tutti 96, 99, Presley Gerber, il figlio di Cindy Crawford, certo, che vi lascio immaginare. Sì, Cindy Crawford, Randy, c'era persino la figlia di Tarak Ben Ammar con papà in seconda fila, perché lei è una modella, una ragazza bellissima e anche un simbolo di Islam moderato, perché certo, insomma, ha sfilato, come potete immaginare, non esattamente di tutto punto vestita, e il padre era molto orgoglioso in seconda fila. Però senti... no, giocosa, dicevo, perché adesso purtroppo descriverle è difficile, ma vedrete su internet, ci sono già tantissime immagini. C'erano per esempio questi zaini orso, cioè i ragazzi uscivano e sembrava che avessero un orso sulle spalle, in realtà era uno zaino, e io lo vorrei naturalmente. Però devo dirti la verità, a volte si aprono i giornali nelle pagine delle sfilate maschili e io non li vorrei vedere tanto gli uomini con gli abiti, perché sfilano degli abiti un po' bizzarri. No, ma infatti adesso questa è stata una sfilata spettacolo, e poi naturalmente bisogna vedere, c'è sempre molta differenza tra quello che sfila e quello che poi finisce nei negozi, e ricordiamolo, è tra un anno, stiamo parlando di cose che vedremo tra un anno, quindi quello che noi vediamo, queste foto che vediamo spesso sono parte, diciamo, dello show. Assolutamente, gli stilisti e le loro reti commerciali di marketing hanno tutto il tempo per capire ma che cosa ha funzionato, quale spunto possiamo sviluppare, perché in questo momento niente di tutto quello che abbiamo visto in passerella è in produzione, bisogna ancora decidere. Però devo dire che accanto a Dolce Gabbana sono state le presentazioni di Brunello Cucinelli, di Keaton, due marchi proprio, soprattutto Keaton, di alta sartoria maschile. Sono stata la presentazione di Tod's, che è in uno dei luoghi più suggestivi di Milano, Villanecchi Campiglio, ed erano, come dici tu, come li vorremmo vestiti, probabilmente. Ecco, forse noi siamo un po' stagionate, non lo so, però... Mi piacciono ancora i vestiti, cioè non con i sacchetti della spazzatura, ecco, fosforescenti, accartocciati addosso. E comunque addosso. Ognuno ha il suo tocco, tu parlavi prima di un tocco d'azzurro. Sto appena girato per l'edizione di domani del giornale una foto di Keaton, di un ragazzo giovane che è sicuramente molto elegante, però gli spunta una camicia azzurra e un fazzoletto di un azzurro diverso. Quindi credo che, come dico sempre, insomma, che gli uomini, i ragazzi si stiano imparando, grazie anche all'offerta che c'è più ricca, a divertirsi con la moda, quindi restare appunto assolutamente credibili, senza sacchetti di plastica, senza orsi sulle spalle, forse, anche se io me lo metterei, e però comunque con dei tocchi di colore, con delle cose. Cucinelli è famoso per aver accorciato i pantaloni, per esempio, che non stanno bene a tutti, però anche quello è un po' un classico rivisitato, ecco. Giulia, noi prima di Natale abbiamo parlato dei regali assurdi, ma che ci avevano incuriosito? Tu avevi fatto impazzire tutti con l'annuncio dell'arrivo sul mercato dei trasferelli delle lentiggini. Sì, e io... Sono arrivati! Sono arrivati, nel senso che le ho ordinate, poi per fortuna non me le hanno mandate con un corriere, perché sarebbe costato più degli adesivi, dei trasferelli, ma con la posta. Quindi sono arrivate stamattina, ho subito mandato Fantastico. Un sms alla Marta, ho detto io in trasmissione porto i faux freckles. Adesso io faccio una foto delle faux freckles, così le metto su Twitter, perché abbiamo la prova che a Giulia sono arrivati i trasferelli Sferelli delle lentiggini, domani le provi? Io stasera le provo e così poi ti mando una foto e mettiamo anche quella. E questo, tra l'altro, io ho scelto una tonalità un po' bizzarra. Perché non è che sono tutte uguali. Sì. E questa qui è Special for Holidays, sono un po' dei colori misti, un po' paura. Comunque dice che poi per toglierle basta un po' di baby oil e si tolgono. Ma è fantastico. Guarda, ci hanno scritto in tanti sui trasferelli delle lentiggini. Esistono. Ci sono, sono arrivati, li vedo qua davanti a me. Da Los Angeles, tra l'altro, quindi anche molto esotiche, una busta da Los Angeles. Straordinario. Grazie Giulia, vienici sempre a trovare. Volentieri. Giulia Crivelli, a presto. Noi una breve pausa, poi saremo ancora insieme. Il sabato del villaggio. Chiudi la porta. Luia, adesso finalmente potrai andare a creare problemi da un'altra parte. Ti ho trasferito di commissariato. E lo sai dove ti mando? A Pizzo Falcone. Hai mai sentito nominare Pizzo Falcone? No. Pizzo Falcone è Ocessere commissariato. Ma tu là ti troverai benissimo, sono sicuro. Ti divertirai. Anche l'inferno è meglio di qui. Bastardi di Pizzo Falcone, un grandissimo successo televisivo, due puntate che hanno superato entrambe il 25% di ascolti, quindi il fenomeno televisivo del momento per questa fiction, della quale già vi avevamo parlato, o meglio avevamo già parlato della storia, perché tratta da una serie di libri molto amati, di un autore molto amato, del quale ci aveva parlato già molto spesso la nostra Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Ciao Marta, vedi che chi legge i libri sa le cose prima? Bella questa cosa, dovremmo utilizzarla come slogan. Chi legge i libri sa le cose prima. Sa le cose prima, perché se uno avesse letto, ormai vengono pubblicati da alcuni anni romanzi di Maurizio Di Giovanni dedicati appunto ai bastardi di Pizzo Falcone, avrebbe già saputo tutto, sarebbe arrivato alla fiction televisiva già preparato. Straordinario. Adesso di cosa parliamo? Bastardi o degli altri libri di Giovanni? No, parliamo dei Bastardi, perché è uno dei noir del momento. Si intitola Pane, è stato pubblicato da Einaudi come tutti gli altri romanzi di De Giovanni. Lui, diciamo che alterna romanzi in cui è protagonista il commissario Ricciardi, quindi sono romanzi ambientati a Napoli nel ventennio fascista, per intenderci, e romanzi in cui invece ci sono i Bastardi di Pizzo Falcone, ambientato nella Napoli di oggi. I Bastardi vengono così chiamati perché sono dei poliziotti che hanno preso il posto di alcuni poliziotti che erano stati corrotti, insomma c'è tutta una storia dietro. Non godono all'inizio di grande stima da parte delle altre autorità, però lentamente nei vari romanzi la stanno conquistando. In questo romanzo Pane, che cosa fanno i Bastardi di Pizzo Falcone, guidati sempre dall'ispettore Lo Iacono? Indagano su un omicidio di un panettiere, di un fornaio storico di Napoli. C'è la DDA, la Direzione Distrettuale Antimafia, che pensa si tratti di omicidio di camorra perché lui aveva testimoniato, perché aveva assistito insomma ad un crimine mafioso. Ma i Bastardi di Pizzo Falcone la pensano diversamente. Indovina un po' chi avrà ragione alla fine? E chi lo sa? chi lo sa? Forse avranno ragione i Bastardi di Pizzo Falcone che non c'entra la camorra? Se hanno fatto più del 25% in TV, probabilmente sì. Sì, hai ragione. Però ti devo dire una cosa a sulla fiction. A te è piaciuta, ecco perché... Allora, mi è piaciuta, so che è piaciuta anche a De Giovanni, l'ha dichiarato anche sui suoi social, ne avevamo parlato anche tempo fa perché lui ha contribuito anche alla sceneggiatura. A volte l'ho trovata un po' troppo pulitina. Insomma, dai, succede quando si va sulla miraglia, come si soleva dire un tempo. Alessandra, questa settimana, a proposito di fenomeni, io ho visto sui social un sacco di ragazze farsi i selfie con i libri. Lo so, è un fenomeno che può accadere allora, solo. Essendo questa una cosa che comunque mi fa piacere, a prescindere sì. qualsiasi libro sia, il fatto che delle ragazze abbiano come oggetto feticcio un libro è una cosa buona. È una perché cosa bella. Mi spieghi perché tutte queste ragazze impazzite questa settimana? È perché in Italia c'è Anna Todd. Anna Todd, per intenderci, vi do qualche coordinata GPS, quella che si è inventata la saga After. Ci sono credo 5 libri su After, una storia d'amore insomma un po' avventurosa fra Tessa e lui, come si chiamava, oddio, un vuoto Hardin, di memoria. Hardin. Ecco, Hardin, lo sai meglio di me. L'ho letto, ecco. Ho letto solo il primo perché non sono tanto in target, è proprio per ragazze, dobbiamo dirlo. Diciamo che è destinato ad adolescenti, dalle adolescenti in su, le ventenni, diciamo dai 15 ai 25 vanno abbastanza pazze. E sono un filino fuori. E anch'io un filino fuori, però vabbè, dai, noi ma però l'ho letto lo stesso, comunque l'ho trovato gustoso mettendomi nei panni di una ragazza. Sai qual è la cosa interessante dei libri di Anna Todd? Che lei racconta sì storie romantiche, come per esempio, non so, c'è stato il filone dei vampiri o Jerry Maguire, insomma tantissime altre autrici. Lei ci mette anche il sesso, perché risponde, cioè quando lo si chiede, ma insomma piccante, i tuoi romanzi sono anche un po' così, lei dice, sarebbe innaturale che una ragazza o un ragazzo a 18 anni che stanno insieme non facciano anche del sesso, e quindi per questo si è ricavata proprio una nicchia sua. Considera che aveva iniziato a scrivere sul web, su Wattpad, che lo spieghiamo per i profani, è questa piattaforma dove si possono leggere dei racconti gratuitamente, si possono anche scrivere. Lei lì sopra ha avuto 1 miliardo di visualizzazioni, cioè una cosa non dico 1 miliardo di persone che l'hanno letta, no, cioè i suoi scritti sono stati visualizzati 1 miliardo di volte. Alla faccia, direi. E allora l'ultimo romanzo che viene appunto presentato in questi giorni in Italia si intitola Nothing Less, Fragili Bugie, Anna Todd, Sperling e Kupfer. Chi è il protagonista? Mm-hmm. Sono sempre gli stessi. Tessa e Hardin. Sono una serie di spin-off, perché tutto è partito da After. Poi c'è stata la saga Nothing More, sì, con questo personaggio London, e adesso c'è la saga Nothing Less, il cui primo libro è uscito ora, il prossimo uscirà a febbraio. Lo so, è complicatissimo, però i fan di Anna Todd sanno di che cosa sto parlando. Se avete quindi adolescenti o ventenni a cui fare un regalo, comprate il libro di Anna Todd. A proposito di Shesho, lo sai che tra poco esce il film di 50 sfumature di nero, il 9 febbraio? No, allora devo ricominciare con la mia rubrica Oltre le 50 sfumature. Sapete, io detesto quella serie di romanzi. Vabbè, inizieremo di nuovo. Il 9 febbraio esce 50 sfumature di nero, il film. Intanto è stata annunciata la colonna sonora, che è uscita in questi giorni con il primo singolo cantato da Zayn e Taylor Swift, quindi proprio ragazze. Comunque il 9 febbraio impazzite. Sono impegnata, ho già un impegno. Hai già un impegno. Lo so già. Che peccato. Senti, ragazzi di oggi, ragazzi di ieri, noi ragazzi di oggi, di qualche tempo fa. Beh, abbiamo parlato delle ventenni, appunto, di Anna Todd di oggi, ma tu te lo ricordi quando avevamo 16-17 anni? A voglia. Io sono più grande di te, però erano gli anni 80. E allora, leggendo questo libro, mi sono ricordata tutta la mia adolescenza. Il libro si intitola Nessuno come noi, è il nuovo romanzo di Luca Bianchini, pubblicato da Mondadori. È perfetto per chi, appunto, non è più giovanissimo, ha superato i 40, ma vuole fare appunto un tuffo nella sua adolescenza. È ambientato nel 1987 a Nichelino, vicino Torino, e c'è un gruppo di sedicenni. Allora c'è Vincenzo, che è ragazzo bravo a scuola, però proviene da una famiglia proprio semplice, umile. Lui si vergogna di questa casa microscopica. C'è Caterina, che è la sua amica per la pelle, che si innamora sempre di ragazzi diversi, tranne che di Vincenzo, che invece di nascosto la ama. Poi c'è l'amica Dark, sai, si usava a quei tempi. E poi c'è questo ragazzo Romeo, il classico figlio di papà, che arriva a scombinare gli equilibri in questo gruppo di amici. E leggendo questo libro si fa un tuffo negli anni 80. Vengono citate tutte le canzoni, non so, Duran Duran, Spandau Ballet, la mania anche di vestirci molto griffati, no? Sai, c'era il periodo, lo diciamo perché lo scrive lui proprio nel romanzo, della felpa Best Company, le Timberland, il Moncler, insomma era il periodo in cui ci dividevamo in paninari, dark, così e così. Io ero normale, forse, non lo so. Io cos'ero, lo confesso, io ero molto molto molto paninara. Vabbè, ma anni... tu eri al nord, io al sud. Beh, non si usava tanto quegli anni si usava davvero, lo dico con un po' di nostalgia, anche se in realtà poi ero bambina, non ero tanto grande, guardavo i grandi, ecco, e li guardavi quelle come me. Beh, insomma, dai, no, non c'è mica tanta differenza. Allora, abbiamo parlato di ragazzi di ieri. Bimbi, guarda, c'è un libro che sta andando molto bene al momento, perché in questo momento c'è il film al cinema e sto parlando di Il GGG. Ah, Il grande gigante gentile! Esattamente, l'aveva scritto, era un romanzo famosissimo di Roald Dahl, pubblicato in Italia da Salani, scrittore inglese, famosissimo per i suoi libri per l'infanzia, non so, La fabbrica di cioccolato, poi Gli sporcelli, anche i miei nipotini li amano molto questi libri. E brevemente la trama, insomma, se dovete andare al cinema con i vostri bambini è carino far leggere anche il libro prima o dopo. C'è un orfanotrofio, c'è questa bambina Sofia, guarda dalla finestra, vede questo gigante con un mantello nero, questo gigante la rapisce, lei ha paura e in realtà lui la porta in questo mondo appunto di giganti, dove i giganti mangiano gli uomini, ma lei ha beccato il grande gigante gentile che è vegetariano e quindi non ha nessuna intenzione di mangiarla e anzi di combattere i giganti che mangiano le persone. Alessandra, ultimo consiglio, cosa ci consigli per questa settimana? Guarda, questa settimana si è parlato molto di Zygmunt Bauman, il sociologo, certo, filosofo che è morto il 9 gennaio a 91 anni e allora, visto che se ne sta parlando molto, tutti dicono, ah sì, la società liquida, perché lui era famoso per questo pensiero, e allora se si vuole, secondo me, leggere qualcosa di Bauman, io consiglierei in realtà non Società liquida, io vado per una tangente e consiglio il libro Amore liquido sulla fragilità dei legami affettivi, scritto dalla Terza. Per Bauman la società era liquida nel senso che la società contemporanea non può essere definita secondo le categorie tradizionali perché è un periodo di grande incertezza, non ci sono più le ideologie, c'è un consumismo sfrenato, i valori cambiano velocemente, insomma l'uomo diventa un soggetto passivo e fragile che subisce i cambiamenti, e questa sua teoria la infila un po' in tutte le salse. Adesso sto naturalmente semplificando, però c'è una frase di questo libro che mi piace molto: la solitudine genera insicurezza, ma altrettanto fa la relazione sentimentale. In una relazione puoi sentirti insicuro quanto saresti senza di essa, o anche peggio, cambiano solo i nomi che dai alla tua ansia. Quanto è vero, quanto è vero, non l'ho mai letto e direi che... E allora per approcciare Zygmunt Bauman in modo un po' diverso dal solito, non con Società liquida, Amore liquido secondo me è un ottimo saggio. Mi piace molto questo consiglio, di consiglio in consiglio l'ultimo è quello con Il cacciatore di libri, casomai aveste dimenticato l'appuntamento durante le vacanze di Natale, perché vi siete persi, perché avete ascoltato Alessandra Tedesco anche in altri orari. molto spesso. Allora, come sempre, il sabato alle 6.30 del mattino, se ve lo siete persi, questa sera alle 22, come sempre in podcast, c'è l'intervista, neanche te lo dico, ad Anna Todd, per scoprire il segreto del suo successo. Quindi, adolescenti all'ascolto e soprattutto mamme e papà di adolescenti. Se volete sapere cosa lei leggono i vostri figli e come parlare di cosa leggono i vostri figli, Il cacciatore di libri, grazie Alessandra Tedesco. Baci. Questa era la sigla dei Bastardi di Pizzo Falcone, appunto una fiction che è andata benissimo su Rai 1, oltre il 25% per le due puntate che sono andate in onda, davvero complimenti. Ma come avevamo detto con Alessandra Tedesco, l'aspettavamo molto, l'aspettavamo al varco. Allora, tra poco abbiamo il nostro appuntamento con il traffico, poi ci sarà con noi questo gruppo che io amo moltissimo, che sono i Baustelle, sono veramente molto molto molto felice. Ho solo qualche istante per darvi qualche anticipazione invece di quello che accadrà nell'ora successiva, dalle 17 alle 18, come sempre il nostro consueto appuntamento con RadioTube, e vedo già arrivato Daniele Bellasio in regia, è già pronto, che facciamo con la manina? Di cosa parleremo? Beh, parleremo ovviamente di quello che sta succedendo in America, grande attualità tra Trump, Obama, Michelle Obama, e poi un tema che è stato sulla bocca di tutti durante le vacanze di Natale. Noi ne abbiamo parlato spesso, magari non in questi termini, però si è parlato moltissimo in questo periodo di post-verità. Cercheremo di capire cosa si nasconde dietro questa espressione che è stata un po' sulle cronache nelle ultime settimane. Altro tema, la televisione. Rimaniamo sempre in casa Rai perché parleremo del collegio, che è un esperimento molto interessante. Cercheremo di capire appunto com'è nato e cosa ci porta questo collegio. E infine, io ve l'ho anticipato nel primo blocco, abbiamo parlato di musica con Carmen Guadalaxara, parliamo di Sanremo, perché io ho visto Daniele Bellasio in mensa, l'ho incontrato in mensa oggi, e mi ha detto che non gli piace il cast di Sanremo, non gli piacciono i cantanti, quindi noi durante RadioTube litigheremo su Sanremo, state pronti, e questo accadrà sicuramente fino a che non sarà finito il festival. Allora, una breve pausa per il traffico e poi saremo insieme ai Baustelle. Il sabato del villaggio. Amica mia, amore, radio, nostalgia, io non ti penso quasi mai, ti ho dato in pasto agli avvoltoi, all'olocausto e ai marinai, amore atomico. Enola Gay, orrore amico, errore mio, che non ti ho detto neanche addio. Esce ed è già subito ai vertici delle classifiche. Chissà se a loro interessa qualcosa essere numeri uno, non lo so, adesso glielo chiedo. E soprattutto uno degli album che aspettavamo di più, perché loro sono uno dei gruppi che insomma colpiscono al cuore, all'anima, oltre che ovviamente alle orecchie. Io non posso non dare il benvenuto con grandissima gioia al sabato del villaggio ai Baustelle. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Quando avevo letto mesi fa che il vostro primo singolo sarebbe chiamato Amanda Lear, ho avuto subito un grandissimo brivido, perché già dal titolo si capiva che cosa di meraviglioso ci stavate preparando. Cioè un grande compendio pop dal gruppo che, a vederlo, sembra il meno pop di tutti. Beh, secondo me, sai, non è conta la sostanza. Noi stavolta, al contrario del nostro aspetto, che è un aspetto tutto nero. No, Rachele, dai, oggi no, io Rachele, non sono colorata, a fiori, è fiorata. Sono imposto i colori oggi. Rachele si è imposto i colori proprio così come... Allora è lei l'unica in sintonia col disco, che io continuo a definire un disco colorato. Nel e senso poi l'hai di... definito anche oscenamente pop, che è bellissimo. Che significa non aver paura di mostrare i colori una volta tanto che li hai, che li indossi, no? Quindi secondo me questo disco è proprio così. È pop in maniera oscena, anche rispetto ad esempio al disco precedente, che era più un monocolore, forse un grigio. Stamattina da qualche parte l'abbiamo definito grigio piccione fantasma. Un gran complimento gli abbiamo fatto. E questo disco invece è arcobaleno, questo è un disco arcobaleno ed è strano per della gente come noi, eh? Prendetelo adesso, che non torno. Questo è un treno che passa una volta sola. che poi non è vero, perché voi siete sì un po' crepuscolari, però con un sacco di ironia, un sacco di così svolte improvvise negli umori. Infatti l'amore e la violenza, che è il titolo dell'album, è anche qualcosa che vi può descrivere, perché ci sono queste due anime insieme, intensissime entrambe. Sì, io lo penso che i Baustelle siano l'amore e la violenza. L'amore e la violenza è un buon titolo per i Baustelle in generale. Oltre ovviamente a essere un buon titolo per questo disco, che è un disco molto... come forse sempre lo sono i dischi dei Baustelle, anche di tentativo di narrazione del tempo in cui si è. E senza giri di parole, senza metafore, perché nel Vangelo di Giovanni profughi siriani costretti a vomitare colpi di fucile, sudore di cantiere, e non è che fate giri di parole, la realtà la raccontate così com'è. Sì, quando c'è da raccontarla la raccontiamo anche col realismo. Poi il bello dell'avere a disposizione un mezzo come la canzone che ti consente nel suo essere sintetica di utilizzare, ti costringe a utilizzare dei linguaggi testuali sintetici che procedono per illuminazioni o frammentazioni, quindi per certi versi, non voglio azzardare paragoni in cui non credo, ma per certi versi come funziona un po' la poesia, no? E parlare d'amore? Ancora si può parlare d'amore aprendo capitoli nuovi, parlando di cose nuove, anche abbastanza dolorose, abrasive? Sì, si può ancora parlare d'amore, anzi, secondo me è un tema così abusato da costituire ancora una sfida. Anzi, a me piacciono, vorrei sentire le canzoni d'amore che non ho mai sentito prima, ed è molto difficile. Ne sento di già sentite, quello è il problema. Per questo non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera. A chi parlate? Perché questa è una buona domanda, a cui non sappiamo, io non so rispondere, forse Rachel. Speriamo di non parlare ai muri o al vento, ma al vento sì, perché si sparge, no, la voce. Perché io mi chiedo, quando una persona scrive una canzone, sa di scriverla per se stessa, ma sa anche di parlare con qualcuno, immagino. Sì, io, se vuoi la mia opinione, la scrivo per qualcuno, quasi solo per qualcuno. Cioè, penso poco a me stesso. So che la scrivo per qualcuno. Scriviamo, siamo sinceri con quello che vogliamo, con quello che siamo. Poi dopo ci accorgiamo dopo, magari, a chi abbiamo colpito di più. Anche perché quando appunto arrivate subito ai vertici delle classifiche, c'è il vostro pubblico, ma ci sono anche questi ragazzi giovani, queste Betty, sì. Queste Betty, che bel profilo, quante belle fotografie, che magari vi ascoltano e chissà cosa leggono nelle vostre canzoni. Interessante, forse ci considerano come dei papà. Potrebbe essere. È una cosa che mi sconvolge, ma alla nostra età può capitare. Allo stesso tempo siamo anche noi, però, Betty, perché Betty è un adolescente o post adolescente di questo tempo, di questo mondo, con i suoi vizi, col suo essere dipendente dalle tante cose che abbiamo a disposizione. Ma lo raccontiamo, perché è proprio quello, raccontare il presente, no? Quello che si diceva prima. Però lo raccontiamo, ma non è che siamo al di fuori dal gioco, siamo anche noi stessi Betty, siamo anche noi in balia delle onde. A giocare con l'amore e con la violenza. Assolutamente. E con la musica come avete giocato? Perché so che avete fatto anche delle cose che sono molto particolari. Cioè, da Sandokan in poi. Sì, abbiamo fatto. Allora, ci siamo concentrati sul fatto che questo disco dovesse avere un determinato suono, e quindi abbiamo stratificato timbri di un certo tipo, quindi mettendoci delle limitazioni. Quindi le tastiere devono essere tutte, i sintetizzatori solo analogici, non digitale. Ma non per essere retro, perché avesse il suono che volevamo questo disco pop, doveva essere un pop diverso da quello che si sente in giro. Poi c'è un interessante utilizzo, questa è la prima volta che ci succede, del sampling, del campionamento. C'è una canzone che contiene un campionamento di un pezzo famoso dei fratelli De Angelis, Oliver Onions, ovvero Sandokan, che è una roba proprio di formazione, credo, io e Claudio perlomeno, insomma, Sandokan per noi. Che dire, anche per me, generazionale. È un aggettivo bruttissimo, dobbiamo dirlo. È divertente questa cosa di Sandokan, perché io ascoltavo il disco, una compilation degli Oliver Onions, parte il clavinet iniziale, e l'avevo ascoltato tante altre volte, ma quel giorno pensai, ma nessun rapper, nessun produttore di pop ha mai pensato di prendere questa cosa così, che suona sul vuoto, e campionarla e farci una hit. E gli Oliver Onions hanno detto sì. No, questo l'ho pensato io, sì, ascoltandolo, e prima che qualche produttore di rap o qualche o di insomma lo, la, prendesse questa idea, che secondo me è una buona idea, avevo detto vabbè, facciamoci un pezzo per i Baustelle. Quindi è nato insomma questo sampling da cui abbiamo, su cui abbiamo costruito la canzone basso e batteria. E poi ci sono degli altri micro sampling, diciamo, di cose non melodiche, no? Cose più che altro ritmiche prese da dischi degli anni 70, utilizzati a fini così ritmico-percussivi. Interessante, no? Come lavoro. Io ho un'ultima domanda, perché poi vi devo lasciare anche al vostro pubblico, perché avete un sacco di incontri con il vostro pubblico che vi ama, tipo apparizioni sovrannaturali, cioè, dei fan pazzeschi, ce li abbiamo anche in radio. E meno male. Meno l'ultima male. Domanda è per Claudio. Oh, davvero? Una domanda per me. Che siccome è sempre un po' taciturno. Claudio, ma tu continui a fare il tuo solito mestiere? Sì, sì. Ho un lavoro da impiegato, insomma. Io lo trovo geniale questo, sì, perché tutti gli impiegati al mondo dovrebbero essere un po' Baustelle nel loro tempo. Oltretutto sono un fan di Radio 24, l'ascolto sempre. Potrei farti la lista della programmazione. Straordinario. Addirittura. Sono molto contenta. Sì, sì. Beh, fantastico. Sempre. Io sono molto contenta di avervi avuto qui, grazie, e tanto grazie adesso sarà, non so, tutti singoli ragazzi. Guarda, non ce ne intendiamo di singoli, i nostri discografici faranno loro, però secondo me ce ne sono, ce ne più sono. Che in passato. Forse. Ce ne sono. Grazie, grazie ragazzi, grazie ai Baustelle. Ciao. Dalla Turchia all'Albania, posti di blocco, posti di polizia, la guerra avanza. Ragazzo mio, ci vuol pazienza. Interventisti, jihadisti e scambisti in lontananza. Nazi e giudei, demoni e dei, macchine in fiamme, terroristi. Evviva il re, l'indipendenza. Bravi registi, preti e lacrima, Cristi in abbondanza. Gravi stati di allucinazione, mentre passa l'ultima canzone all'Eurofestival. Straordinario questo L'amore e la violenza dei Baustelle. Una breve pausa, poi saremo ancora insieme con Il sabato del villaggio, che diventa Radio Tube.